America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Una baby boomer per il futuro, corro per diventare presidente, dice Hillary Clinton nell'atteso video di ieri. Finalmente ha rotto l'indugi e ha annunciato la sua candidatura per la nomination democratica per la Casa Bianca del 2016. Abbiamo avuto dunque un fine settimana storico sotto molti punti di vista, devo dire, perché avrete visto sicuramente la notizia dell'incontro di Barack Obama con Raul Castro al vertice delle Americhe a Panama, il primo incontro in 59 anni fra un presidente americano e un presidente cubano. L'ultimo, pensate, fu proprio a Panama, fra il dittatore cubano Fulgidio Batista e il presidente Eisenhower. Vediamo dunque per questi due sviluppi alcuni spunti di analisi e cominciamo da Hillary. It's spring, so we're starting to get the gardens ready and my tomatoes are legendary here in my own neighborhood. Mi hermano e io stiamo empezando un primer negozio. La Clinton ha voluto dare un messaggio semplice, appena 2 minuti, 90 secondi dedicati a uno spaccato di giovani famiglie americane contemporanee, una ragazza di etnia asiatica con un bambino in mano, una coppia di afroamericani, un'anziana signora che mette ordine in giardino per prepararsi alla primavera, due latinoamericani che vogliono aprire un ristorante, l'immagine di due persone che si tengono per mano, primo piano sulle mani, poi la voce fuori campo che annuncia ci sposeremo in estate. Si passa a un campo largo, si scopre che la coppia è di due uomini gay. Un messaggio per le minoranze, quello di Hillary Clinton, un messaggio per il multiculturalismo, ma anche un messaggio per le famiglie. Il cuore della grande America in 90 secondi ha dato uno spaccato di chi potrebbe votare per i democratici. Il tutto corredato da una sequela di sorrisi, di ottimismo, risatine, devo dire forse persino un po' eccessive. Prepara il giardino, apro il nuovo ristorante, e devo dire che il rapporto risate-tempo in questo video è altissimo. L'obiettivo? Beh, l'obiettivo è mostrare un'America ottimista, che guarda al futuro, un'America giovane, un'America che ride in perfetta sintonia con una signora di 67 anni che potrebbe fare storia diventando la prima donna nominata nella corsa per la presidenza in entrambi i partiti. E se vincerà sarà la prima donna presidente. Lei e Bill, il marito, saranno la prima coppia che è arrivata alla Casa Bianca nella storia americana. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead. Because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote. Because it's your time. And I hope you'll join me on this journey. Ecco, Hillary dice, gli americani normali, quelli del giorno per giorno, hanno bisogno di un campione. E io voglio essere quel campione, dice la signora Clinton, e dunque mi metterò per strada per conquistare il vostro voto perché è arrivato il vostro momento e spero che mi seguirete in questo viaggio. Quando le famiglie sono forti, l'America è forte. To conduct official business. Wanted to reset relations with Russia. Not really working out well. Potentially catastrophic move for Hillary Clinton. Ecco, il messaggio di Hillary, c'è già stata la risposta repubblicana, un altro video messo in onda ieri in rete, fermate Hillary, questo è il titolo del video repubblicano. Ecco, si sentono delle voci di sottofondo, losche, come avete sentito, voci disturbate, come simbolo dell'ambiguità di Hillary e di Bill, Hillary che non manda i soldati a Bengasi, Hillary che usa le email personali invece di quelle del Dipartimento di Stato e così via, così via. E devo dire però che Hillary in corsa preoccupa i repubblicani, anche perché la forza del suo partito non è da sottovalutare. Pensate che l'obiettivo della signora Clinton è quello di raccogliere la cifra record di 2,5 miliardi di dollari per finanziare la campagna elettorale. Questi soldi serviranno per lo scontro finale, forse contro Jeb Bush. And I was very direct with him that we are not going to stop talking about issues like democracy and human rights and freedom of assembly and freedom of the press. Ecco, proprio mentre si candida Per la Casa Bianca 2016, il primo latinoamericano di origine cubana, Barack Obama ha siglato sabato una pagina di storia. Si è incontrato con Raul Castro, come avete sentito dall'audio che vi ho fatto ascoltare, auspicando un futuro disteso per i due paesi. Il problema per Obama è che, anche se ha fatto storia sul piano dell'incontro dell'immagine, non ha ancora ottenuto quelle concessioni che dovrebbero cambiare la situazione a Cuba. Castro ha chiarito che dal punto di vista istituzionale della libertà di stampa, di quelle per le libere elezioni, di libero dibattito politico, non cambierà nulla. Noi dovremo restare come siamo, ha detto chiaramente nel suo discorso mentre Obama ascoltava. E questo, devo dire, può presentare un problema per il presidente americano. I critici dicono che Obama fa concessioni senza ottenere nulla in cambio. Le sta facendo con Cuba. Presto Cuba, forse oggi stesso, forse domani, sarà tolta dalla lista dei paesi sponsor del terrorismo. Le sta facendo con l'Iran, che accetterà forse di firmare un accordo limitativo sul nucleare, ma non accetta di smetterla con la sponsorizzazione del terrorismo internazionale o con le minacce continue contro Israele. Ecco, direi che se c'è una critica per Obama, che in questi due anni finali cerca di lasciare la sua impronta storica, beh, è quella di aver svenduto un pochino i suoi accordi. Vedremo però se ci sarà sostanza, perché soprattutto per ciò che riguarda Cuba, quello che cambia è un'equazione, un paradigma, cioè il rapporto degli Stati Uniti con l'America Latina. Come ha detto Ben Rhodes, uno dei consiglieri del presidente americano, in tutti questi decenni in cui abbiamo isolato Cuba, volevamo isolare Cuba, in realtà eravamo noi a essere isolati. Ora questo cambierà. E dunque la risposta di Obama a chi lo critica per aver dato troppe concessioni è: beh, diamo tempo al tempo. L'America ha una visione ben più lunga di quella che può essere la visione del castrismo. Ma sul piano simbolico, devo dire, c'è una coincidenza straordinaria, perché negli stessi giorni in cui, dopo 59 anni, un presidente americano incontra un presidente cubano di nome Castro, un giovane cubano-americano come Rubio, che non sarebbe nato in America se non ci fosse stato il castrismo, corre per la Casa Bianca. Beh, anche questa è storia, anche questa è democrazia americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Hillary Clinton decide di correre, to hit the road, e dunque mi sembra che la canzone più appropriata sia Born to Run di Bruce Springsteen, nati per correre, con parole molto evocative. Nel giorno in cui sudiamo fuori per le strade di un sogno americano in fuga, scappiamo finché siamo giovani, perché noi derelitti, amore mio, siamo fatti per correre. Dedicato a Hillary, Born to Run, nati per correre, Bruce Springsteen. Just wrap your legs around these velvet rims and strap your hands across my engines. Together we could break this trap. We'll run till we drop. Baby, we'll never go back. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!